Oggi nella lezione di Gemara, siamo sempre qui al pagina 14a, già verso la metà della pagina, Amar Rav. Visto che abbiamo parlato nella Mishnah e abbiamo analizzato anche nella Gemara i vari aspetti della interruzione, dell'interrompere durante lo Shema, ora la Gemara dice, dà un'indicazione riguardo, diciamo, un altro tipo di interruzione, non una vera e propria interruzione, ma vedremo il concetto allargato ulteriormente. E la Gemara lo propone come un insegnamento di Agadah, a differenza di un insegnamento di Halakha, cioè spesso nella Agadà si fanno delle esegesi di versetti per trarre delle lezioni, anche se non si usa il senso letterale del versetto, cioè proprio si usa come un tipo di derashà agadica, si chiama, cioè non letterale e non sempre legata alla tecnica halachica, anche se in questo caso vedremo che in un certo senso sarà sì applicata all'halakha. E questo è un metodo molto comune nelle parole di Chachamim, di dare gli insegnamenti, diciamo, trasmettere l'importanza di certi comportamenti o l'importanza di evitare certi comportamenti anche in base a questo tipo di derashah dei psukim, dei versetti. Allora, vediamo cosa dice Rav. Rav dice, Kol hanoten shalom la chavero, chiunque saluta il suo prossimo, kodem sheyit palel, prima ancora di pregare, cioè prima della tefilà, la mattina, che ilu asa obama, è come se avesse fatto del suo prossimo un altare di Avodazara. Bama è un modo di riferirsi a un altare di Avodazara. Che fino a questo punto... Allora, vediamo di cosa si tratta. Appunto, queste parole vogliono trasmetterci l'idea di quanto è importante questa cosa. Allora, prima Hashem, prima che possa. Sì, ora vediamo il versetto sul quale si appoggia per dire questa cosa, che perché proprio ha scelto l'altare di Avodah Zarah. Poteva dire come se avesse, non so, fatto un'altra cosa, no? Perché dire proprio questo? Perché c'è un appoggio, diciamo, su un versetto che allude a questa cosa. Cosa dice? Shenemar, come è detto, c'è scritto nel libro del profeta Yeshayahu, Isaia, il secondo capitolo alla fine, è una grande profezia dell'era messianica, è un invito a lasciare modi più futili, più frivoli nel comportamento, eccetera. E dice il profeta Yeshayahu, Chidlu lachem min ha'adam, evitate di mettere la vostra fiducia nell'uomo, min Adam, chi bamen echshavu, poiché che cosa vale questo uomo? Ah, scusate, asher neshama beapo. Sì, questa è la parte importante. Asher neshama beapo, che l'uomo dipende solo da quel soffio di vita, da quella neshama che gli è stata data nel momento in cui viene via la persona, non ha nessuna validità. Allora, che cosa mettete la fiducia nell'uomo? Non ponete la vostra importanza, la vostra fiducia, il vostro appoggio nell'uomo che è considerato nulla. Asher neshama beapo, che solo dipende dalla sua neshama, da quel piccolo alito di vita. Ubame nechshavu, chi bame nechshavu. E quindi, bame, in che cosa può essere considerato, preso in considerazione, considerato importante l'uomo? Domanda retorica che fa il profeta Yeshayahu. Cosa c'entra con la nostra indicazione che Rav ci ha dato? Ora Rav spiega. Alti cre bame. Invece di leggere la parola bame con la vocalizzazione E sulla M, sulla mem, leggi e la bama. Non dare importanza all'uomo, perché se gli dai importanza lo trasformi in una bama, in un altare di Avodah Zarah. Cioè, se noi cambiamo la vocale, diventa applicata questa lezione. Ora, è chiaro che bisogna entrare nell'ottica della Haggadah. Non è che lui sta dicendo che il versetto non va letto così, va letto così. Per i fini di questo insegnamento lo possiamo leggere in questa maniera. Chiaro? Per un esercizio di... Cioè, il versetto non dice così perché la vocale non è quella. Il versetto non dice questo. Noi, per i fini di questo insegnamento, i Chachamim usano questo metodo, al-tikre, non leggere così, bensì così, per trasmettere degli insegnamenti. Uno molto famoso, e che lo diciamo ogni mattina, al-tikre banaich e la bonaich. Cos'è? Una citazione dei parole dei Chachamim, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Cosa c'è scritto? Talmidei Chachamim, chi è studioso di Torah, chi studia la Torah, Marbim Shalom Ba'olam, fanno aumentare la pace nel mondo attraverso il studio della Torah. Sheneemar, come detto, Vechol Banaich Limudei Hashem, e tutti i tuoi figli, Banaich, i tuoi figli, Limudei Hashem, sono studiosi, studiano gli insegnamenti di Hashem. Dicono i Chachamim, al tikre banaich, non leggere banaich, bensì leggi bonaich. Bonaich vuol dire i tuoi costruttori, cioè sono considerati i Chachamim come se costruissero il mondo, come se tenessero in piedi la pace del mondo. Ovviamente il versetto dice banaich, non dice bonaich. Non leggere così, leggi così per il fine della trasmissione di questo insegnamento, per sottolineare l'importanza di questa cosa e il senso di questa cosa. Allora non è che dobbiamo andare a cancellare i libri, no, non leggere così, leggi così. No, è una cosa aggiunta. Si aggiunge un'altra lettura per un altro strato di significato a livello di Haggadah, a livello di insegnamento etico e morale soprattutto, più spesso è così. Allora Rav l'ha trasmessa questa cosa in questa maniera, dicendo che tu consideri quella persona come se fosse lui una deità quasi, se dai importanza prima a lui e poi alla tefilah. Ora, adesso vedremo che Shemuel, il compagno, diciamo il contemporaneo di Rav, subito tempera un po' quanto ha detto Rav, l'ha detta in maniera un po' estrema. Ed è, viene subito temperata dalla visione di Shemuel. Però prima di arrivarci, perché Rav fa questo paragone? Alcuni commentatori scrivono, per esempio il Marsha, un grande commentatore sia della Gemara, sia a livello di Halakha che a livello di Haggadah, come in questo caso, dice che visto che, perché ha fatto Rav questo paragone con la Bama, con l'altare? Cioè, perché visto che la tefilah è, sappiamo che è al posto delle korbanot, la tefilah sostituisce il servizio dei sacrifici, dei korbanot, ok? Allora chi accoglie il suo prossimo prima di accogliere la Shekhinah nella e attraverso la tefilah, è come se uno lascia il sacrificio di Hashem e va a fare un altro tipo di culto, tra virgolette, come se tralasciasse questo per fare quello. E quindi per questo motivo ha fatto questo paragone qui. Ci sono anche altre spiegazioni. Per esempio c'è un maestro che scrive, siccome quando noi facciamo tefilà riconosciamo con il fatto stesso che facciamo tefilà che è a Kadosh Baruch Hu quello che decide ciò che sarà, cosa ci arriverà e cosa non ci arriverà, eccetera, eccetera. Quando una persona riconosce questo, non si avvale più dei favori delle persone. Sa che quello che gli deve arrivare gli arriverà, e che quello che non gli deve arrivare non gli arriverà, e non importa quante connection e quanta protezione e quanti legami può avere, amicizie, eccetera, eccetera. Non è questo che conta, giusto? Perché riconosce, facendo tefilà, vuol dire che una persona riconosce che tutto viene da Hashem, qualsiasi cosa che è. E quindi, se invece dà importanza all'uomo, è come se non riconoscesse questa idea, questa massima. È quasi una subdola forma di Avodah Zarah, diciamo così, non Avodah Zarah vera e propria, anche Rav non intendeva una vera e propria Avodah Zarah, ovviamente. Una forma subdola in cui si dà importanza all'uomo. E per questo hanno detto, quando tu stai per fare tefilà, ricordati perché stai facendo tefilà. Perché stai con questo riconoscendo l'autorità assoluta di Akadosh Baruch Hu è che tutto quello che a te serve arriva da lui. In quel momento non è giusto andare a salutare una persona prima di fare questo dovere qui. Però adesso, come vedremo nella Gemara, Shemuel dice: ok, però non devi dirla così, in maniera così estrema. Vediamo come dice Shmuel. Ushmuel amar. Shmuel la traduce, la spiega in questa maniera. Bame chashavto laze velo leloka. Dice, non devi necessariamente trasformare la parola bame in bama, in addirittura un altare che è come una vodazara. Puoi tradurre così, sempre applicando il versetto al non salutare prima della tefilà, ma dicendolo in questa seguente maniera. Bame, in che cosa, per quale motivo, come lama? Bame, per cosa, per quale motivo? Hashavto laze, hai reso, hai preso in considerazione questo qui, cioè quello che hai salutato, velo leloka, e non a Kadosh Baruch Hu. La cosa più, diciamo, prima. Quello che dicevi tu, Alberto, prima, bravo. E questa Shmuel l'ha vista in questa maniera, ovvero non bisogna dirla in maniera così estrema, secondo lui, in maniera così estrema, che Bamè diventa Bamà, addirittura un altare. È sufficiente dire Bamè perché, per qual motivo, devi considerare qualcun altro prima di fare, di considerare Akadosh Baruch Hu, diciamo così. Tra parentesi, la halakha nello Shulchan Aruch, nella codificata, dice che effettivamente è bene non salutare un'altra persona prima di aver fatto la tefilah. È come se prima di aver fatto tefilah, è come se ancora devi aprire gli occhi, ancora devi fare le prime cose che bisogna fare la mattina. Se una persona ti saluta, chiaramente incontri una persona e ti saluta, certo che gli rispondi con il saluto. Però c'è scritto, è bene evitare la parola shalom, come nel saluto, prima della tefilah. Perché c'è scritto che la parola shalom è anche uno dei nomi di Akadosh Baruch Hu. Allora questa è come un'ulteriore mancanza di rispetto, perché se io ancora non ho salutato, tra virgolette, Akadosh Baruch Hu nella tefilah, e uso il suo nome per salutare qualcun altro, e ancora, allora magari saluta in un'altra maniera, non dicendo la parola shalom. Sì, sarebbe superato questo problema se uno capitasse che saluta dopo le prime berakot, fino a prima di Baruch Shema. Non credo, cioè per tefilah qui si intende proprio l'amidah. La tefilah, quindi sì, per arrivare sì, fino all'amidah. Sì. Quindi sbagliamo. No, beh, diciamo che l'alakha ufficiale, dicevi, raccomanda o dice si fa così, che non si deve? L'alakha dice non si rivolge il saluto a un'altra persona prima della tefila, a meno che la persona ha salutato, allora si risponde al saluto. Però questo non vuol dire che bisogna... Non dovrebbe nemmeno lei, quella persona. Ah, anche perché magari non lo sa o non sa. Come il discorso dell'interruzione, uno che sa quello che... Magari non lo sa o non sa. Ma l'altra persona è considerata pure persona di famiglia? Allora, questo, signori... Entriamo troppo. No, questo non vuol dire che non si può dire il buongiorno a nessuno o sorridere a nessuno prima di fare la tefilah. Ok? Si può sorridere, si può dire buongiorno. Cioè, secondo anche la consuetudine... del, diciamo, del posto, del modo di comportamento normale. Credo che sia importante forse fare in maniera un po' diversa, come qui dice evitare la parola shalom, però nessuno di noi comunque dice la parola shalom la mattina, diciamo buongiorno, diciamo così, no? Quindi comunque non l'avremmo detto. Allora fare una forma un po' diversa, perché che tu sai, come riconoscimento, che ancora devi fare tefilah. Infatti, è evitare anche a livello di sportivo, che certo, fai un buongiorno, comunque è limitato a quello, e sai che poi farai la tefilah. Esatto. Ok, proseguiamo. La Gemara dice, contesta questa affermazione. che non si può salutare prima della tefilà, dice scusa, non capisco, cosa abbiamo studiato nella Mishnah? Che ci sono diversi casi in cui se ci viene rivolta la parola, il saluto, dobbiamo rispondere anche durante lo Shema. E in altri casi ancora dobbiamo addirittura noi rivolgere il saluto anche durante lo Shema. E qui mi stai parlando che non si può fare un saluto prima della tefilà? Se si può fare durante lo Shema, a maggior ragione, Calvachomer, che si può fare prima della tefilà, neanche ha iniziato a parlare, a fare tefilà. Qual è il problema? Mativ Rav Sheshet, Rav Sheshet pone la domanda, la difficoltà, come contraddizione a questo insegnamento in base a quanto abbiamo studiato nella Mishnah, e cita le parole della Mishnah che sono Ba Perakim, c'è scritto nella Mishnah che dura, che tra un brano e l'altro dello Shema Shoel mi pene hakavod umeshiv, per una situazione di rispetto, kavod, rivolge il saluto e risponde al saluto che gli viene rivolto. E allora, scusa, se si può fare in quel caso, perché non si può fare in un caso normale prima di aver iniziato la tefilà? Ottima domanda. Allora la Gemara tempera ulteriormente quanto abbiamo detto prima per chiarire di cosa si tratta e come in realtà non c'è contraddizione. Cosa dice la Gemara? La Gemara dice così. Tirgema la spiegò. Targum, cosa vuol dire Targum? Traduzione. Traduzione, ma Targum nel senso più antico vuol dire anche spiegazione, no? Tirgema Rabbi Abba, Rabbi Abba la spiegò, questa affermazione che abbiamo fatto prima, lui la spiegò nella seguente maniera e non sarà più contraddittorio con quanto abbiamo detto nella Mishnah, come adesso sollevato da Rav Sheshet. Dice Rabbi Abba, si intende dire quando sarebbe vietato rivolgere saluto, eccetera, prima di tefilah, Bemashkim le pitcho. Non è la persona che ha incontrato per caso, o che sei entrato al tempio, hai visto qualcuno e hai detto buongiorno, o che sei svegliato e dentro casa hai visto la tua consorte o tuo genitore o figlio e hai detto buongiorno. No, Bemashkim le pitcho. Se vai a casa di qualcuno per salutarlo prima della tefilah, questo non si può fare. C'è un'altra prospettiva. Cioè, prima della tefilà dici, sai cosa? Non ho visto tal di tali da un po' di tempo, oggi lo vado a salutare. Ok, lo vai a salutare, ma dopo la tefilà? Lì è proprio dedicarsi a quella persona. Dedicarsi a quel saluto, a vedere... casuale il saluto. Esattamente, quindi bravo, non si tratta di un saluto casuale, perfetta la parola, la descrizione, si tratta di... L'intenzione. Intenzionalmente andare a trovare una persona per salutarla, che ovviamente è una cosa che va fatta, ed è molto importante, ma... Lo si fa l'appuntamento dopo la tefilà. Praticamente quando uno fa visita anche a una persona e c'è tefilà e saluta prima magari chi è da velut, cioè fa un errore. Aspetta, cosa, come? Cioè far visita a chi è da velut. Sì. E praticamente arrivi prima della tefilà, poi fanno tefilà. No, questo non è un problema. Tu parli la mattina? Mattina, la sera, no, è diverso. Quello che noi stiamo dicendo qui è solo la mattina. Solo la mattina, non è che tutto il giorno non puoi salutare qualcuno finché non hai fatto tutte e tre le tefilotte. Certo. Stiamo parlando la mattina. Ok. Proseguiamo con il vostro permesso. Amar Rabbi Yonah. Signori, guardate le parole della Gemara. I maestri hanno detto Otiyot Machimot. Guardare le parole, le lettere ci rendono più chacham, otiyot machimot. Importante non solo sentire, anche seguire, e questo ci aiuta anche a poi riconoscere, conoscere nuove traduzioni, parole, e iniziare poi, un giorno sarete voi a fare lezioni di Gemara. Amar Rabbi Yonah, Amar Rabbi Zeira, disse Rabbi Yonah, uno dei grandi Amoraim del Eretz Israel, ed era l'allievo per eccellenza di Rabbi Zeirak. Anche lui era un grandissimo maestro che venne dalla Babilonia in Eretz Israel. E seguendo la stessa scia del contesto con il quale abbiamo aperto, dice così: Kol ha-oseh ha-fatzav, chiunque si occupa delle proprie cose, diciamo, uno deve andare in banca, uno deve andare al posto, uno deve controllare la mail, eccetera, eccetera. Kol ha-oseh ha-fatzav kodem sheit palel, chiunque si occupa delle proprie occupazioni prima di fare tefilah, che ilu bana bama, dice la stessa cosa che ha detto Rav riguardo chi saluta. Mm-hmm. È come se avesse costruito una bama, un altare di Avodah Zarah, vero? Oh. Amru lo, dissero a lui i suoi allievi, bama a Marta? Hai detto proprio bama? È come se avesse... abbiamo sentito bene? Addirittura lo paragoni alla costruzione di un altare per Avodah Zarah, cioè loro l'hanno sentito non dalla sua bocca, a nome suo, e sono venuti a chiedergli se davvero si è espresso in questa maniera. Allora lui rispose, Amar Lehu, disse lui a loro, Lehu in aramaico è come Lahem, a loro, disse là, che vuol dire là? Come in arabo. No. Le. No. No. Lo. No. Ho detto assur ka'amina. Io ho detto che è vietato, ma non ho detto che è come costruire una bama. Assur, vietato ka'amina, ho detto io. Quindi non sono arrivato fino al punto di dire in maniera così forte che è come costruire una bama. Però ho detto che è vietato, che non si fanno le proprie cose prima della tefilah. E l'ho detto in base a un insegnamento di un altro chacham che adesso sarà citato. Vecchi di Rav Idi Baravin, disse il maestro Rav Idi, figlio di Avin, Amar Rav Idi Baravin, e a lui a sua volta lo disse Amar Rav Yitzchak Bar Ashian, a sua volta lo disse a nome di Rav Yitzchak Bar Ashian, tra parentesi non so se questo Ashian è lo stesso che abbiamo citato la scorsa volta, che era il Tana della Yeshiva di Rabbi Yochanan, scusate, di Rabbi Ami. Non so se è lo stesso, può darsi che lo sia. Allora Rav Yitzchak, figlio di Ashian, disse, e lo citò Rav Idi Baravin, che adesso è citato da Rabbi Yonah. Cosa ha detto? Assur lo le Adam la asot hafatzav kodem sheyit palel. È vietato che l'uomo si occupi delle proprie cose prima di fare tefilah. Sheneemar, e qui lo appoggia a un altro pasuk, è scritto nel versetto del Teilim, il Salmo 85, Sheneemar, come detto, Tzedek lefanav yehalech, la persona pone, e la giustizia cammina letteralmente, va davanti all'uomo, ve Yassem le derech peamave, la persona si mette in viaggio, si mette i propri passi sulla via, cioè la persona cammina ponendo sempre davanti il tzedek, la giustizia. Ok? Questo dice il Salmo. Ora lui lo traduce. In un'altra maniera, cioè, prima fare la cosa giusta, cioè tefilah, tzedek, come tzedakah, e poi yasem la derech peamave, poi vai per le tue vie. In questa maniera interpreta questo versetto. Prima bisogna pregare, e rendere tzedek, rendere giusto il Signore, che noi diciamo nella tefilah, tutto ciò che il Signore fa è giusto, e poi inizia a fare le sue cose, prendere le sue vie. Inoltre, adesso aggiunge sullo stesso versetto, sulla scia della scorsa, dell'insegnamento appena detto, un altro insegnamento, sempre legato allo stesso versetto e sempre legato alla tefilah. Ve'amar Rav Idi Baravin Amar Rav Yitzchak Bar Ashian, e disse inoltre lo stesso Chacham Rav Idi Baravin a nome dello stesso Chacham citato prima, cioè Rav Yitzchak Bar Ashian, disse così: Kol ha-mitpalel, chiunque si comporta nella seguente maniera quando deve viaggiare. Prima mitpalel, prima fa la tefila. ve'acharkach yotzela derech, e poi va per la sua, per il suo viaggio. Allora, questa è una grande cosa, e HaKadosh Baruch Hu osse lo chafatzav. HaKadosh Baruch Hu si occupa per lui delle sue cose, della persona. Cioè, come detto, Shenemar, questo è alluso nello stesso versetto, Tzedek lefanav yehalech, quando la persona prima tefilà, e poi yehalech, e poi si mette in moto per la sua strada, allora v'yasem lederech pe'amav, come se HaKadosh Baruch Hu, come se si rivolgessimo nella seconda parte del versetto ad HaKadosh Baruch Hu, in questa allusione, cioè HaKadosh Baruch Hu che fa le sue cose per lui, che mette le sue vie in ordine per lui. Molto bella questa della Shah. Quindi quasi a dire, stai tranquillo, non ti non avrai niente di nessun effetto negativo, perché bravo, bravissimo. Hashem, quindi Hashem, esatto, provvede, esatto. Hashem provvederà se tu devi viaggiare, però devi, non sai se prima fare la tefilà o no. Dici, fai prima la tefilà, che poi sarà questo anche un aiuto per il tuo viaggio, per quello che ti devi occupare. Ok? Ora, visto che abbiamo parlato, abbiamo citato Rabbi Yonah, vero? Vi ricordate che abbiamo citato Rabbi Yonah? Rabbi Yonah è quello che ha citato questo concetto inizialmente di non fare i propri, di non occuparsi delle proprie occupazioni prima della tefilà, e poi ha citato Ravi di Baravin che ha detto no, non è una bama, è vietato, ma non ho detto che è una bama. Questo era Rabbi Yonah a nome di Rabbi Zera. Visto che lo abbiamo citato, lo citiamo ancora una volta su un'altra cosa che non sembra essere legata. Anzi, più avanti in questo trattato, nel nono capitolo, ci sarà tutta una sughia, tutto un intero, diciamo, una sezione di varie pagine sul tema che adesso sarà citato. Ora però saranno solo alcune righe citate da questo Chacham, ed è il tema dei sogni. Amar Rabbi Yonah, amar Rabbi Zera, disse inoltre Rabbi Yonah a nome di Rabbi Zera, Kol halan shivat yamim belo chalom, chiunque dorme una settimana intera, o sette giorni, senza che cosa? Senza pregare. No? Mangiare. Dove c'è scritto chalom? Belo chalom. Senza sognare. Chalom è un sogno. Dorme sette qualcuno che ha dormito, senza dormire, qualcuno senza che ha dormito sognare. Per un'intera settimana non ha visto un sogno. Un sogno c'è scritto. Sogno, no, per favore. Un sogno. Allora, fate attenzione. Kol halan shivat yamim belo chalom, virgola. Qui mettere una virgola. Chiunque dorme sette giorni senza vedere un sogno, nikra ra, si chiama malvagio la persona. Come è possibile? Shenemar, come detto in un versetto, è detto nel Mishlei, nei proverbi, Vesavea yalin bagli paked ra. Savea è sazio, uno che dorme bene e non viene toccato da alcun male, uno che sta tranquillo nel sonno. Allora lui trasforma il significato di questo versetto, come abbiamo detto prima, come Agadah, come allusione, e dice Altikre Savea. Invece di leggere questa parola Savea, cambia le vocali, lo puoi leggere Sheva, stessa parola, stesse lettere, Sheva, sette, cioè sette giorni. Sette giorni che dorme Bali Paket, senza essere ricordato, cioè senza sognare, non viene, diciamo, ricordato nel sogno, si chiama Ra. Poi però aggiunge un altro Chacham e dice a Rabbi Yonah, Amar le disse a lui Rav Acha Bere Rabbi Chia Baraba, disse a lui Rav Acha, che era il figlio di un altro maestro che si chiamava Rabbi Chia Baraba, e gli disse, così disse Rabbi Chia mio padre, Hachi Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan, a nome di Rabbi Yochanan. Vedete come è incredibile, come ogni cosa ha una tradizione molto esatta, molto precisa, che citiamo per dire una riga di insegnamento, due righe di chiarimento chi l'ha riportato. Perché non si dicono le cose campate per aria. La fonte. C'è la fonte della tradizione che l'ha insegnata, oppure c'è un metodo accettato, riconosciuto per arrivare a una conclusione, no? Così, io credo così, allora tu credi, però su cosa ti basi? Quali sono o le fonti o quali sono le basi, i criteri di metodologia logica di Torah che hai usato per arrivare a questa conclusione? Sempre deve essere una di queste due cose. E qui vediamo uno di questi esempi, appunto. Disse Rabbi Ravacha, figlio di Rabbi Chia Baraba, a nome di Rabbi Chia, che ha detto a nome di Rabbi Hanan, cosa ha detto? Kol hamasbia atzmo. Non toglie il significato di savea, cioè di sazio. Traduce il versetto nella seguente maniera. Kol hamasbia atzmo. Chiunque si sazia, di cosa si sazia? Non di una bella bistecca, ma mi divrei Torah. Chiunque si sazia dalle parole di Torah, cioè studia molta Torah durante il giorno, velan, e poi va a dormire la notte, allora en mevasrino tobe sarot raot, non gli verranno date notizie negative nel sogno. Se ne è mare, si appoggia, come detto, a questo stesso versetto, tradotto in quest'altra maniera, vesavea, chiunque è sazio delle parole Torah, yaline, va a dormire, bagli pachedra, non gli verranno ricordate delle cose ra, delle cose negative. Quindi ha trasformato il senso di quanto diceva Rabbi Yonah. Rabbi Yonah diceva, se tu non sogni, forse sei un malvagio. Lo diceva, no, se tu vai a dormire sazio, dipende cosa hai fatto durante il giorno, in altre parole. Se ti sei saziato di divrei Torah e hai dormito, allora non ti arriveranno sogni negativi. Se invece... e non ti sei saziato di vedere, può essere che il fatto che non sogni è un'indicazione che forse non stai all'altezza che dovresti essere. Però qui non abbiamo affrontato a fondo questo tema, che va approfondito e va capito cosa intendeva dire Rabbi Yonah, però lo approfondiremo più avanti nel trattato, quando arriveremo a quella sugya, a quell'intera sezione di Gemara che si dedica a questo tema dei sogni. Qui conclude con questo e poi va avanti a commentare la Mishnah. Come? Quindi secondo quest'ultimo inciso, quest'ultima situazione, uno, se è stato il proprio Torah, dove, sta tranquillo, insomma, non ha sogni, non è preso dai sogni negativi, eccetera. Uh-huh. Se invece se sogna, evidentemente forse bisogna vedere, potrebbe essere stato una conseguenza del fatto che non si è abbastanza dedicato alla Torah. No. Allora, Rabbi Yonah ha detto chi non sogna è considerato un malvagio. Sì. Cosa si intende con questo? Il senso più semplice di questa cosa è che non si intende il sogno semplice, si intende un sogno vero, un sogno che gli viene detto qualcosa di vero dal cielo, ok? Non che ogni sogno che noi facciamo ha importanza, la maggior parte dei sogni non hanno importanza, ok? Allora, chi dorme per 7 giorni e non ha avuto un sogno di questo tipo, allora era forse perché dall'alto non gli vogliono parlare, non gli vogliono dire niente, allora non è preso in considerazione. Allora l'altro Rav, Ravacha, dice, non è detto che sia così, può essere che sia una persona degna, e eccetera, eccetera, però visto che si sazia delle parole di Torah, è questo che gli dà forza, non ha bisogno che gli venga detto nel sogno qualche notizia o qualche cosa. Anche perché un sogno importante ogni settimana, pure tanto. Certo, vero, è vero. Però stiamo parlando di un sogno di questo tipo, bravo, non è ogni cosa che... Ok. Comunque, adesso sì. Ancora non mi è chiaro a me. Quale? No, dall'inizio però. Sì, dimmi. Il fatto che saltano da un discorso all'altro. La struttura. Sì, ok, cioè, allora. Cerco di chiarire. Chiarire è una parola grande, però. La struttura della Gemara è questa. Qual è? Qual è? Allora, la Mishnah è abbastanza chiaramente strutturata. Ci sono anche eccezioni nella Mishnah quando si va da un discorso all'altro, ma è molto raro. La Mishnah, tu quando apri un determinato trattato di Mishnah, sai che si parlerà di quel tema che è il nome del trattato. Per esempio, noi stiamo studiando il mercoledì il trattato di Yomah. Yomah vuol dire il giorno di Kippur. E quando noi studiamo la Mishnah, effettivamente studiamo cose che riguardano il giorno di Kippur. Quando invece noi studiamo Gemara, non è sempre così. Gemara è strutturata in maniera diversa. Perché cos'è Gemara? La Gemara è come se tu sai, c'è il nido delle formiche, ok? Il formicaio, a volte lo fanno sottoterra, a volte lo fanno sopra, tipo una collina. Allora, se tu prendi una lama e tagli a metà il formicaio, ti si aprirebbe un mondo in cui vedresti tantissima attività, ognuno che va in un'altra direzione, ognuno che va in un altro scopo, e tu non ci capiresti niente. Perché non è che qualcuno, c'è la formica che ti fa da guida turistica per farti entrare dall'entrata e capire questo che significato ha, e questo che scopo ha, e quell'altro cosa fa, e questa zona cosa vuol dire, quell'altra zona cos'è. Se tu la spacchi così a metà e vedi, ti perdi subito, non capisci niente. La Gemara è il formicaio spaccato a metà di ciò che avveniva nella yeshiva ufficiale di Babilonia, per commentare, per approfondire, per capire, per analizzare la Mishnah, per applicare la Halakha, per capire le fonti, per capire i paragoni, per dare insegnamenti etici, morali, tutto quanto è spaccato a metà dal formicaio. E tu sei lì così. Aspetta, abbiamo parlato di questo, adesso parliamo di quello, adesso abbiamo fatto così, adesso abbiamo fatto cos'ha. Così sembra. La verità è che c'è una struttura, c'è un filo, c'è una logica, però è un altro tipo di filo, un altro tipo di struttura, un altro tipo di logica, che si impara strada facendo, studiando Gemara, cercando di capire come funziona. Come base, la Gemara commenta la Mishnah, però non è, diciamo, come la Mishnah, una cosa scientifica, commentiamo questa cosa, poi commentiamo questa, poi commentiamo quella. È una cosa viva, è una discussione che sta avvenendo ancora. Ok? Allora, quando noi commentiamo la Mishnah, per esempio, la Mishnah parlava delle interruzioni, abbiamo analizzato, giusto? Che vuol dire? Questa opinione della Mishnah sembra che in un caso specifico sia uguale all'altra opinione della Mishnah. Abbiamo fatto questa, allora abbiamo chiarito, no, la Mishnah intendeva dire così, quindi abbiamo chiarito, abbiamo approfondito il senso delle parole della Mishnah, abbiamo portato delle prove da delle Beraitot, dalle fonti che appoggiano la Mishnah, che stanno intorno alla Mishnah, ok? Facendo questo, ci possiamo ricordare un'altra cosa che è legata e la citiamo. Un punto importantissimo che bisogna ricordare è che tutto questo avveniva oralmente, veniva trasmesso, non per iscritto. Allora vuol dire, ecco qui l'esempio, abbiamo citato un maestro e l'abbiamo citato di nuovo su una cosa che sembra non c'entri niente, sui sogni. Si può approfondire per trovare un legame, ma anche senza farlo, il primo legame è la citazione dello stesso Rav. Se è ricordato su una cosa, ricordiamo anche un'altra cosa che ha detto là, la mettiamo sull'ordine del giorno, per dire, non ci dimentichiamo che questo Rav ha detto anche così, un metodo per ricordare, per esempio. Perché era orale anche. Perché era orale, questo dico. E quindi la Gemara si chiama l'oceano del Talmud, perché non è quella strada retta come la Mishnah, è un oceano. In un oceano ti sembra di non capire niente, ti sembra di non vedere nulla, però piano piano diventi un capitano esperto, sì, capisci il vento in che direzione va, capisci le onde, la loro grandezza, la loro forza, capisci l'imbarcazione, come si deve comportare, come reagisce, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose che si applicano piano piano, man mano, nello studio della Gemara. Ecco perché è importante riconoscere le parole chiave, no? Perché questi sono come delle indicazioni stradali, sono queste parole chiave che ti dicono cosa sta per arrivare. Per esempio, facciamo l'esempio qua. Mativ Rav Sheshet, abbiamo detto. Rav Sheshet contesta, abbiamo parlato del non salutare prima della tefilà. Rav l'ha detta in maniera estrema, è come una bama, una Vodazara. Shmuel l'ha temperata, ha detto no, non esageriamo, non è come una Bama, però è comunque non dare importanza a altre cose prima di fare tefilà, no? Poi è arrivata la contestazione, Mativ Rav Sheshet. Noi dobbiamo ricordare che Mativ è una parola chiave che indica che si propone una contraddizione, un rifiuto di un'idea, in base a una baraita o una mishnah, cioè in base a una fonte più autorevole rispetto a chi l'ha detto. Perché chi l'ha detto? Rav e Shmuel. Chi, ricordiamo, dobbiamo sempre capire, chi sono queste persone? C'è una gerarchia. Rav e Shmuel sono maestri della Gemara, Amoraim, la prima generazione di Amoraim. Erano allievi di Rabbi Udanasi, il maestro che ha redatto la mishnah, ma sono Amoraim. Se c'è una fonte di Tanaim che li contraddice, prevale quella. Allora, Mativ Rav Sheshet è una contestazione importante, perché la parola Mativ è una chiave, che lui sta contestando non da un punto di vista uguale a loro o minore di importanza, ma maggiore di importanza, cioè Beraita o Mishnah. In questo caso è la Mishnah, perché la conosciamo, è la nostra Mishnah. Quindi, tu vedi la parola Mativ? Ah, forse adesso quello che hanno detto loro non avrà più valore, perché ci stiamo introducendo un problema. E poi la risposta è stata Tirgema. Abbiamo tradotto, abbiamo spiegato meglio il senso della Mishnah, in modo tale che quello che loro hanno detto non è più contestato dalle parole della nostra Mishnah. Allora questo è un chiarimento legato alla nostra Mishnah. Ok? Ed è l'estensione di un discorso che abbiamo fatto nella Mishnah. Cioè la Mishnah parlava di interruzioni. Qui parliamo di un altro tipo di interruzione. Non è un vero e proprio, una vera e propria interruzione, perché non ha ancora iniziato Tefilah. Però è lo stesso concetto, ti devi occupare di questo, non occuparti di quello. E da qui siamo arrivati a parlare di chi deve fare un viaggio, di, cioè siamo, arriviamo da una cosa all'altra. Certo che avere l'impresa di riportare tutto questo formicaio, come per seguire tutta questa che sembra una confusione di pareri, di discussioni, cioè riportarla per iscritto non deve essere stato un lavoro improbo, cioè. Assolutamente, assolutamente. E poi l'idea era proprio perché è stata redatta, sì, nel momento in cui era, cioè mettere magari le, ma non tanto nell'ordine cronologico, che non quello, però nell'ordine d'argomento. Sì, cioè nel momento in cui, come è successo, allora per questo ti dico, tu devi capire che tipo di testo hai davanti. Questo è il tipo di testo che la Gemara è una cosa unica al mondo, è qualcosa di particolare, perché ti apre una finestra su quella che è la vera e propria discussione che avveniva. Mettere per ordine, codificare, eccetera, questo è stato fatto successivamente. Cosa ha fatto il Rambam? Ha fatto questo. Il Rambam, se tu lo leggi, è un codice molto chiaro, molto breve, molto nitido. Non solo tiene conto, tutta la sua fonte è la Gemara, però se tu leggi la Gemara, se tu leggi la Gemara e poi leggi Rambam, non è facile capire come lui ha estrapolato dalla Gemara, perché la Gemara è difficile seguirla e capire qual è la vera conclusione alla quale è arrivata la Gemara. Ecco perché noi abbiamo qui a lato una delle cose che sono qui, sono uno dei maestri che ha scritto più tardi, Massoret Hashas, cioè lui spiega dove nei codici, dove nel Rambam, dove nello Shulchan Aruch troviamo affrontato quello che stiamo studiando nella Gemara, perché l'allievo semplice non sempre riesce a collegare. Ma prima del Rambam già il Rif, Rabbeinu Yitzchak Alfasi, ha fatto una cosa simile, cioè ha preso le parole stesse della Gemara, ma solo le conclusioni, non tutta la discussione. Perché? Perché già pochissimo tempo dopo che la Gemara è stata redatta, già la gente non riusciva più a capirla. Cioè già da subito doveva essere commentata. E questo è stato prima con i commenti dei Geonim, che la gente mandava le domande e loro mandavano le risposte. E poi codificazioni come Rabbeinu Yitzchak Alfasi, Rif e altri simili. Poi la grande codificazione del Rambam, eccetera, eccetera, finché arriviamo allo Shulchan Aruch e tutto quanto. Però la Gemara deve essere in questa maniera, perché se non fosse in questa maniera non si capirebbe bene la fonte delle cose, le motivazioni, il livello di importanza di tante cose. Se tu lo metti in un codice così così, non è chiaro. No, ma è così. Per questo, scusami se concludo solo, per questo non si può fissare una halakha solo in base ai codici. Non dico una halakha che è chiara, però un'alakha che va approfondita. Se noi guardiamo solo i codici, cioè le versioni abbreviate, è vietato fissare un'alakha. Per un maestro, un Rav, deve tornare anche alla fonte nel Talmud per capire bene su cosa si basano i codici, perché può darsi che dai codici potrebbe sembrare che un caso non... Qual è il problema dell'alakha? Un caso non specificato nell'alakha, tu dici come ci comportiamo in questa maniera, una cosa nuova, magari un'innovazione moderna, non sappiamo come l'alakha la affronta. Forse da questo codice sembra che ci si comporterebbe in questa maniera, però se tu vai alla fonte può darsi che ti viene fuori il contrario. Ecco perché arriva le motivazioni che hanno. Se non avessimo la fonte, cosa faremmo? La Gemara è una delle fonti più importanti. Ecco perché è importante che sia in questa maniera. Ok? E effettivamente non è facile studiare Gemara. Ma allora... Non è facile. Con questa cosa che mi hai detto adesso mi hai aperto un attimino il libro totalmente. No, per veramente, sì, perché... Sì. No, è bene... sull'esempio che hai fatto adesso su... Le fonti, la codifica. Magari quando devi fare qualcosa... ovviamente se uno sa solamente la fonte finale, perché è capitato. Ecco, bravo. Sapendo solo la fonte finale, allora dici, vabbè, allora se lo faccio a Shabbat lo faccio pure bravissimo a Kippur. Ecco perché dico sempre, bisogna evitare i paragoni, soprattutto nell'alakha, perché... Quasi sempre ci si trae in errore, perché dice, se si applica qui, allora si applica lì. Ieri ho detto a qualcuno, parlavo di un'altra cosa, però gli ho fatto l'esempio. Se tu vai, come uno dice, scusa, se è permesso l'ascensore di Shabbat, allora perché non è permesso un altro tipo di facilitazione? Allora dico, è come se tu andassi da un chirurgo e gli dici, scusa, tu hai messo a posto il mio naso, perché non metti a posto pure il mio occhio? Un po' diverso, è un po' diverso. È un'altra tecnica, è un'altra delicatezza. Ah, vuol dire solo perché forse alcuni maestri dicono che l'ascensore, per esempio, no? Faccio un esempio, l'ascensore di Shabbat è permesso, fatto in una determinata maniera, appositamente per lo Shabbat, che si ferma su tutti i piani, indifferentemente se c'è qualcuno o non c'è nessuno, eccetera. Non per questo è permesso prendere l'autobus di Shabbat. Il tram. È un altro tipo, può essere che questo è un naso e questo è un occhio. Chi lo può sapere? Un vero chirurgo. Chi conosce il suo mestiere, per questo non è che ognuno per strada dice no, e i rabbini hanno detto così, allora dovrebbero dire pure così. Forse però... dovresti prima studiare e capire che ci sono tantissime sfumature e cose. Sì, scusa Alberto. No, scusate. Quindi benissimo. Ok. Ci hai convinto. Adesso è chiaro, voglio dire. Scusa. Sì. Adesso è più chiaro giustamente il perché. Ma visto che noi almeno siamo in una fase, io in una fase... Di studio, di avvicinamento, di approccio per la prima volta, comunque sia un terreno così difficile. Okay. Forse non potrebbe essere, perché non, il percorso non si parte da i testi o le situazioni già un momentino riordinate, uno affronta l'argomento, gli si crea uno schema un momentino più pulito, dopodiché va a conoscere, approfondire. Guarda, ti ricordi, hai capito bene quel concetto? Bene, guarda che dietro ci sono 5 pagine di questo che si sono parlati. Allora, se ho capito la tua domanda... Sì, sì, sì. Allora, Alberto dice... Scusate, ripeto per la registrazione. Alberto dice che se è così, tra virgolette, pericoloso, trarre conclusioni da testi che ancora vanno approfonditi, soprattutto per persone che... devono ancora avviarsi nello studio di questo tipo, eccetera, eccetera. Allora non sarebbe meglio forse studiare direttamente i testi già redatti, già codificati prima, e poi dopo approfondire le loro fonti? Non è sbagliata come idea, però ci dobbiamo ricordare che la Torah è molto, molto vasta. Ok? Io credo che una persona potrebbe passare tutta la vita a studiare solo i codici redatti, senza avere tempo per fare altro. Però noi vorremmo studiare tanti aspetti della Torah, ok? E potrei entrare adesso in tutto un altro discorso, che però non c'è tempo. Fatta breve, visto che è importante studiare tutti gli aspetti della Torah, non c'è nessun problema, credo che il metodo che stiamo facendo qui al Kollel Torah è molto buono, perché... No, ho capito, non era una critica, lo so, è una domanda, sto cercando di spiegare, no, assolutamente, non c'è polemica. No, è solo per spiegare. Ma non è stata pensata così. Ripeto, il metodo è molto buono ed è un metodo che si fa in molte yeshivot, cioè che si studia halakha, per capire come uno effettivamente si deve comportare. Si studia anche Gemara per capire come si sviluppa l'Halakha. In altre parole, quando noi studiamo Gemara, non siamo tenuti a concludere come è la Halakha, perché possiamo aprire il codice e capire come è stata conclusa l'Halakha. Noi non abbiamo questa funzione, grazie a Dio, in questo punto del nostro livello di studio. Solo pochi in ogni generazione hanno questa preparazione. Ma tutti gli ebrei devono studiare tutti gli aspetti della Torah, e non c'è nessun male in studiare la Gemara, studiare la Mishnah, studiare la Hasidut, studiare la etica, studiare la Halakha e studiare la Gemara, capire come funziona, come dico le altre volte, le budella della Halakha, cosa c'è dentro, con l'accorgimento che quello che stiamo studiando nella Gemara, se volessimo applicare, dobbiamo prima chiedere a un Rav che insegna la pratica o guardare nei codici cosa se ne parla. È scontato che nelle yeshivot, per esempio, si studia moltissima Gemara, con molto approfondimento, con centinaia di commentatori che commentano la Gemara. Perché? Perché quando una persona studia non solamente per mettere in atto, ma anche per studiare. Cioè, nell'ebraismo c'è uno scopo nello studio stesso. Non solamente studiare per capire come comportarsi. Certo serve quello, è assolutamente è indispensabile studiare per sapere come comportarsi. Ma una persona che studia per sapere come comportarsi deve anche studiare solo per studiare. Solo per approfondire, solo per capire le fonti, le spiegazioni, le motivazioni, le contraddizioni, le soluzioni, perché studio di Torah per studio di Torah. In realtà nelle yeshivot la maggior parte del tempo è dedicato a questo tipo di studio, perché l'Halakha, tra virgolette, è più semplice, studi il codice, quello è il codice, il comportamento, anche la vita della comunità osservante ti insegna soprattutto qual è effettivamente il comportamento e quello così ti comporti, però poi certo. Cosa fai? Sai come comportarti? Puoi chiudere i libri e andare in spiaggia? No. Diciamo un ebreo lo so, sto dicendo io, non sto dicendo quello che hai detto tu, sto dicendo io. Un ebreo studia sempre. Uno ebreo che qualcuno che ha finito tutti i trattati del Talmud, cosa fa? Rinizia subito da capo, come facciamo con la lettura della Torah? Scusa, non sarebbe più logico leggere la Torah un anno, il prossimo anno leggiamo la Mishnah, il prossimo anno leggiamo Shulchan Aruch, e poi finiamo, andiamo in spiaggia! Quando tu studi Gemara, ti apre un altro mondo, la prossima volta che studi la stessa Parashah, un'altra Parashah, e così via. E questo è ieri abbiamo segnato la ricorrenza dell'Alter Rebbe, dell'autore del Tania, e lui c'è scritto, adesso non mi ricordo quale età, un'età molto molto giovane, ha finito di studiare 15 volte tutto il Talmud, 15 volte tutto il Talmud, e la sedicesima volta ha ripetuto lo studio di tutto il Talmud in piedi, senza stare seduto. Cioè non in una volta, però ogni volta nel corso del tempo che ha detto questa volta, la sedicesima volta, l'ha fatto tutto in piedi per rispetto di quello che stava facendo. Uno che ha studiato 16 volte, questo era quando era giovane, poi per dire la Torah è Torah Hashem, noi ci leghiamo ad HaKadosh Baruch Hu attraverso la Torah. La Torah è Chochmato Urezzono Shel HaKadosh Baruch Hu, la saggezza e la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Va affrontata in questa maniera, non come un altro regime di studio. Concludiamo qui la lezione. Anche più studi.